Adesso la letteratura ormai direi decennale, perché i primi studi escono tra gli anni, fine anni 80, primi anni 90, studi che mettono in relazione in maniera chiara, diciamo con evidenze robuste, come si dice in epidemiologia, la posizione sociale che le persone occupano, misurata attraverso diversi indicatori, può essere il reddito, può essere il tipo di occupazione, il livello di istruzione, la residenza, eccetera, e indicatori di salute, quali la probabilità di ammalarsi, la probabilità di morire e la mortalità. Quindi la letteratura è molto vasta e anzi, vuol dire, c'è anche un po' di critica a continuare a produrre dati che non fanno che suffragare l'esistenza di queste disuguaglianze e la pochissima azione che è stata fatta in senso di contrasto. Questo indipendentemente dal tipo di sistema sanitario che ha ciascun paese, cioè anche chi ha una sanità pubblica comunque si presenta lo stesso questo fenomeno? Questo fenomeno si presenta lo stesso, nel senso che è comunque legato, diciamo, all'esposizione, no? Quindi prima di arrivare, diciamo, al conclamarsi della malattia, sono le condizioni dove le persone vivono, in cui lavorano, in cui si trovano, che poi comportano un maggiore o minore rischio di ammalarsi o maggiore o minore possibilità di proteggersi. Laddove esistono sistemi sanitari di tipo universalistico, si può avere un effetto di attenuazione, però c'è da dire che anche in Italia, che appunto ha un servizio sanitario di tipo universalistico, in realtà anche all'interno del servizio sanitario queste disuguaglianze continuano a manifestarsi. In altre parole, non solo chi è, diciamo, più povero, per semplificare, si ammala di più che prima, ma tendenzialmente viene curato peggio o più tardi o con esiti meno favorevoli. Questo in qualche modo dovrebbe condizionare anche le politiche, diciamo, economiche di un paese. Ma senza dubbio, c'è stato un dibattito interessante nel Regno Unito, che per tanti versi ha delle similitudini, diciamo, col contesto italiano, dove proprio a fronte di questi dati epidemiologici che mostravano come una società diseguale produce malattia e quindi costi, l'intervento, diciamo, più costo efficace sarebbe stata una tassazione più redistributiva, no? Quindi utilizzare argomenti epidemiologici per giustificare misure di tipo sociale redistributivo, perché avendo una società più equa si ridurrebbe una serie di carichi di malattia e quindi di nuovo anche carichi economici a livello della società. In questi giorni si sta iniziando a discutere, insomma, appunto proprio di redistribuzione della ricchezza, perché la sensazione è quella che non ci libereremo tanto presto della pandemia o comunque delle sue conseguenze, quindi insomma politiche di redistribuzione sul lungo termine della ricchezza hanno un impatto positivo quindi anche sull'aspetto sanitario. Sì, senza dubbio, mi viene da dire che intanto, giusto perché non l'ho detto ma ci tengo, anche ovviamente l'epidemia di coronavirus ha un impatto diseguale sia in termini di incidenza che di conseguenze e di mortalità a seconda della classe sociale, e ci sono dati anche nella nostra regione che documentano questo fenomeno, quindi sarebbe intanto importante inserire un discorso di equità nelle misure che vengono prese per contrastare l'epidemia e senza dubbio, come dire, sfruttare anche questa occasione per ribadire il fatto che politiche di equità anche in senso socio-economico si traducono in vantaggi per la salute di tutte le persone, non solo di quelle a maggiore svantaggio, è sicuramente una cosa importante da fare in questo momento.